Oh, sorridimi ancora e passami quel sorso di sangria. Credo che sia un sogno perché non riesco a picchiarti. Mi sento quella rete addosso, gli occhi chiusi. Ma che importa poi il duello se mi stai simpatico? Tut mir leid se ho schioccato un bacio alla mia bella. Poi mi son ravvisto che era tua. Oh, non lo potevo fare, ma mi sa che tutto questo non è reale. Übersetzungen, ich möchte so sagen, sage mir da, sage mir da, alle die Töne, die ich kenne nicht, alle die befinden sich nicht, will mich auf deine Sprache einzweigen. Zweikampf, ein Zweikampf.